13ª edizione di Libero Cinema in Libera Terra. Voglio partire da una frase del nostro presidente onorario, oggi più che mai attuale e urgente. Diceva Ettore Scola: i grandi nemici della mafia sono la cultura e la conoscenza, il suo miglior nemico è l'ignoranza, proprio quella che vediamo diffondersi anche nel nostro paese come una nuova ideologia. E per combatterla anche il cinema può fare la sua parte. L'immagine è l'intuizione più democratica dell'uomo. L'immagine è per tutti. Con le parole di Ettore Scola nel cuore e con al nostro fianco Don Luigi Ciotti, prosegue nel 2018 l'impegno di Libero Cinema in Libera Terra, il festival di cinema itinerante contro le mafie che d'estate viaggia per la penisola con un cinefurgone attrezzato in grado di allestire in poco tempo un cinema all'aperto, scegliendo luoghi simbolici dove montare lo schermo e il proiettore, come le piazze, i beni confiscati alle mafie, le piazze, i parchi, le periferie, per portare direttamente le emozioni del cinema direttamente alle persone e per promuovere l'allargamento degli spazi democratici e la cultura della legalità. Il viaggio in Italia di Libero Cinema inizia dalla Lombardia il 17 luglio e si conclude il 5 agosto in Sicilia. Prima tappa il 17 luglio Mantova, il 18 luglio a Galbiate, dalla Lombardia alla Liguria, il 19 luglio saremo ad Imperia, il 20 luglio a Gattatico al Museo Cervi, in Toscana il 21 luglio a Seano Carmignano, in Umbria il 22 luglio ad Assisi, poi la carovana si sposta in Campania il 23 e il 24 luglio, prima a Pignataro Maggiore e poi a Sessa Urunca, il 25 luglio la carovana raggiunge la Puglia, a Cerignola la prima tappa e il 26 luglio la seconda tappa a Mesagne. Poi Libero Cinema e Libera Terra si sposta in Calabria, il 27 luglio proietteremo a Polistano, il 28 luglio a Palmi, dalla Calabria alla Sicilia, dal 1 al 5 agosto. Le tappe sono 1 agosto Trappetto, 2 agosto Salemi, 3 agosto San Giuseppe Aiato, 4 agosto Catania, 5 agosto Ascicli. Dopo la pausa estiva, in autunno la carovana riprende il suo percorso con le tappe del 5 e 6 ottobre saremo a Ferrara al Festival Internazionale e a metà ottobre la carovana chiude il percorso con la tappa in Francia, a Parigi, insieme agli Atelier Varan, per sottolineare il fatto che le mafie non sono un problema che attecchisce solo nel nostro paese, ma sono un problema internazionale. Ogni tappa del festival è organizzata in stretta collaborazione con le realtà del territorio, le cooperative di Libera Terra, le associazioni, i presidi di Libera, le istituzioni, i cittadini responsabili. In accordo con le realtà locali vengono anche scelti film da proiettare con la consulenza di Fabrizio Grosoli. 11 sono i titoli in programma quest'anno, film d'impatto, interesse e riflessione per il pubblico. Tra i titoli abbiamo Oltremare di Bianconi, Prima che la notte di Vicari con il fiato sospeso della Quatriglio, Sono tornato di Minero, L'ordine delle cose di Andrea Segre, Nato a Casal di Principe di Bruno Oliviero, Vento di Soave di Punzi, L'intrusa di Lorenzo Di Costanzo, Untitled di Glavugher e Willy, Il giovane Marx di Peck, Gatta Cenerentola di Rack, Cappiello e Guarnieri. Agli spettatori di questo festival particolare, oltre ai film, vengono proposti anche due spettacoli dal vivo. Uno, tra virgolette, storico, Mafia Liquida, la performance tra cinema e fumetto e Lavagna Luminosa con l'artista Vito Baroncini, che caratterizza le proiezioni di Libero Cinema in Libera Terra delle ultime tre edizioni. A fianco allo spettacolo Mafia Liquida, da quest'anno Libero Cinema in Libera Terra propone anche la conferenza spettacolo Rifiutopoli, Veleni e Antidoti, in scena il giornalista Enrico Fontana e l'artista Vito Baroncini alla Lavagna Luminosa. Rifiutopoli debutterà ad Imperia, Assisi, Polistena e Catania per chiudere anche in questo caso la sua tournée con Rifiutopoli al Festival Internazionale. Anche per l'estate 2018 Cinemobile Libera propongono due campi di estate liberi. Il primo, che si tiene in Sicilia dal 30 luglio al 5 agosto a San Giuseppe Aiato, nel bene confiscato il Giardino della Memoria. Il titolo del campo è Vivere un festival, valorizzare un bene.